vedo mai più. Mi devi dir la prima e dolce frase d'amor. Tu stanotte o mai più dovrai sentir del primo bacio tutto l'ardor. Se vuoi dirmi di sì, dimmi di sì, in questa notte bella così. Solo puoi fremere tu, stanotte o mai. Che cielo lassù sembra dipinto di blu da un pittore misterioso per la scena dell'amore. Tutto ci invita ad amare, tutto ci invita a sognare nel silenzio voluttuoso che ci fa tremare il cuore. Notte bella così, solo